Giovanni Rapini di Bruscià. Carissimo tutti gli assenteisti, salutami quell'amico là, ciao! A 14:10. Su 10 c'è nessuno. C'è qualcuno qua? Basta entrare, sì. Chi è avanti? Buonasera, amico, non mi ricordo il tuo nome o il tuo correo o il tuo nominativo. Buonasera, oggi no, la terza zona alta, ok, uranio in pratica, e a te il cambio, dai. Cappa uranio, Alfa 1 da questa parte, avanti ancora a te. Ok, Alfa 1 allora, benissimo Alfa 1, dammi un corre K come ti sta arrivando lì in quella zona di Sierra Sierra, che cambio? 9:10 qua, è radio 5, però sono in zona bassa io. Zona bassa, sì, dipende con la zona bassa sia, che il Sassari è abbastanza vasta, quindi bisogna vedere in quale zona si bassa, ok. Va bene, forse al Sassari invece sotto, va bene, cappa accetto, grazie al controllo. Tu qua arrivi a regione fatta, la regione 5 è potentissima, però il segnale è 0 il tuo, Qua a te il cambio. Il segnale quanto è? Segnale 0. Ho capito. Ma la radio però è favolistica, favolistica, è la tua 5 di radio, è perfetta, Purtroppo sto usando un omologato, ho capito, 4 watt e non posso fare nulla. Ok, vedi un po' adesso come segnare, vedi un po' adesso se ha diminuito di parecchio, vedi un po' 2-3 prova, vai. E adesso sta arrivando molto più basso, Santiago 8. Ah, ok, io lo sto aiutando con un po' di potenza, poca roba. Però già pare che ti faccio sentire la tocca, insomma tocca tanto per dire, forse la parte che magari l'ho già preso per andare in certe tocche di vatti, perché non era manco la metà, ok, maledetti, te il cambio, dai. Riprende Alfa 1 qua per uranio. Cosa ti volevo dire? Io purtroppo mi manca uno spezzone, se no potevo arrivare anche un po' più fortino lì. Cambiavo apparecchio, questo è un superstar omologato, non ha canali, non ha niente, capito? C'ha le bande laterali, però è chiuso perché è omologato, capito? L'ho comprato così e non intendo aprirlo, perché se no se lo apro praticamente perdo l'omologazione, capitolai Urani. Ah, capito, sì. Ok, la Superstar è l'ultima marca, la Superstar è sempre stato la diciamo, un'ultima marca, ok, non è anche l'ultimo parecchio secondo il tipo è. Oggi io sto usando qualcosa a base, un vintage, sto usando un President Washington con 80 canalici, ok, 40 passi, 40 arti, e come ti ho detto prima, un po' di potenza, sto usando un amplificatore da ZG, ok, adesso non mi ricordo più le. Vabbè, comunque dare 30 a te il cambio, dai. No, io amplificatori non ne ho. Non ne voglio avere perché sono nel mirino, quindi è meglio avere la roba omologata e non sa che vengano a controllarmi, non si sa mai. Quindi. È meglio essere in regola, capito? Sì, regola, quale regola di Egitto? Non è più confermo adesso, una volta ci venivano a controllare, adesso non c'è proprio più cosa c'è da dire, niente, ok, una volta venivano sì, ogni tanto facevano a controllare, gatta e via, ma adesso è difficilissimo che passino, diciamo, a fare controlli del genere. Ok, comunque ognuno la vede lui, diciamo, alla sua passione, cosa vuole fare, cosa non deve fare. Qua non c'è venuto da nessuno, però me, una volta solo, ma ancora mi faccio tutto, noi è gravissime, quindi dopo l'avevo ripreso, però la papà non c'è più ritornato nessuno qua, ok, dal mondo si è subito. A te il cambio. Il capo, io disturbavo e mi avevano denunciato. Mi hanno portato via anche un apparato omologato perché era appena uscita la legge che volevano omologati CE, capito? E quindi mi sono dovuto comprare questo Superstar che è omologato e marcato CE. Mi hanno portato via il dosimetro, mi stavano portando via anche l'alimentatore. Meno male che l'alimentatore era marcato CE, ne ho due così, quello non me l'hanno toccato, però mi hanno multato e mi hanno portato via l'apparato omologato perché non corrispondeva alle direttive CE, capitolai, quindi non lo puoi tenere, te lo sequestrano, per quello ho questo omologato qua. Dai, una massa di pezzenti insignificanti, ho capito. Poi non c'è trasporto, ma c'è, non c'è. Ok. Dunque, vabbè, ora facciamo la cosa, va. Sì, facciamo denunciato. Per me avevano denunciato la moto, non si faceva la prima, però non c'è più passato nessuno qua, ok? Evidentemente la natura si chiama singola pure sicuramente qualche condominio, com'è? Disturbavo delle televisioni, non era manco colpa mia perché avevano l'antenna messa male della TV, però purtroppo mi hanno trovato in quelle condizioni che l'apparato non lo potevo tenere, e questo e quello, e purtroppo è successo così. Vabbè, adesso mi ho cambiato l'antenna, anche con quella non disturbi neanche perché ho la Game Master, capito, quella senza radiali, 5 ottavi. La Game Master, sì. L'ho sentita rovinare questa Game Master, mi pare che ce l'abbia anche Giulio Dollaro, questa Game Master, sì, mi pare di sì. Va bene, noi a Forretero sto usando la Gimpol 780, ok, un'ottima perna, un'ottima perna però un po' costosa, Roger, dai, comunque è una bellissima perna, non la risulta, anche la Game Master non deve essere male, ma a me queste antenne così non mi piacciono, vabbè, ognuno diciamo vede lui cosa deve fare come adesso la prima. Va bene, va anche bene quella, è importante che sia nuovo la terra. diciamo è molto importante, eppure è molto importante che per la stazione, se la sera non è buona è un casino. Poi magari con quella terra che avevi prima era vecchia, magari disturbava per quello, adesso con questa nuova, cioè non dovresti avere problemi, a te cambi, vai. Vabbè Urani, adesso ti devo lasciare perché devo fare delle cose qua. Grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, là. Alfa 1 QRT. Ok, Alfa 1 QRT, allora saluto il proviere, è stato rispettivo un correo familiare. Sentiamo le prossime, pare che non ci sia nessuno, è un po' strano. Va bene, dai, anch'io sicuramente chiudo tutto qua. QRT allora, appunto, l'evento di serata e buon fine domenica, anche per me, diciamo, quelli che ti ascolto, se non entra nessuno, chiudo il tutto. Ciao, ciao, alle prossime. Attenzione, Sassari!